Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di un libro di economia, ma è che è anche un romanzo. Quindi buonasera Piercarlo Ceccarelli. Buonasera, dottor Fabi. Buonasera, questo libro si intitola I Gianselmi, una storia familiare. Piercarlo Ceccarelli è consulente di impresa, economista di impresa, ha lavorato negli Stati Uniti e in Svizzera, ha lavorato per le multinazionali, è stato imprenditore, poi ha condotto ed è ancora presidente di una società di consulenza di direzione, giusto Ceccarelli? Esatto. E dopo aver scritto una decina di libri dedicati proprio al management, libri di teoria e pratica manageriale, ha scritto un romanzo. Perché questa scelta di scrivere un romanzo, Ceccarelli? Ma innanzitutto lei sa che gli imprenditori non sono certo una classe che legge molto e quindi con i saggi in mano a volte si trovano un po' a disagio. Allora ho pensato di in qualche modo far breccia attraverso un romanzo. E poi c'è anche il fatto che la solitudine del capo azienda, il peso della responsabilità di chi conduce un'impresa spesso da solo, non è facile raccontare in un saggio. Mi pare che un romanzo sia uno strumento più capace di dare un'idea vivida dei sentimenti e del peso di questa responsabilità. Ecco, i Gianselmi è proprio la storia di una persona che si trova a condurre un'azienda di famiglia, un'azienda che vive un momento di crisi. Ecco, è un'azienda, la tipica azienda italiana, medio-grande direi forse questa, ma quindi non è un'azienda diciamo di fantasia, è un'azienda reale, anche se il nome Gianselmi ovviamente è un nome d'arte e quindi è un caso aziendale. Sì, il romanzo si ispira a un caso vero, naturalmente proteggendo sia l'azienda sia i protagonisti e permettendomi un po' di libertà poetica, ma il caso è reale. Ecco, un caso reale, quindi un caso in cui si intrecciano vari elementi, si intreccia l'elemento della crisi economica, delle difficoltà dei mercati, appunto un romanzo ambientato in questi ultimi anni, si intreccia il problema del passaggio generazionale, si intreccia il problema dei confronti e dei contrasti all'interno della famiglia e si intreccia anche il problema della consulenza aziendale, che ha un ruolo importante in questo romanzo e diciamo così anche nella realtà, Ceccarelli. Sì, naturalmente il mestiere che faccio da tanti anni è questo e quindi non potevo non far riferimento, anche perché nel caso di cui parlo il contributo della consulente è stato determinante sia sul piano tecnico, delle competenze, dei processi aziendali introdotti, sia nel piano più di relazione con il vertice per interpretare e decodificare e rispondere in modo valido alle istanze di un azionariato complesso come quello di più rami familiari che si trovano dopo tre generazioni a possedere un'azienda. Quindi è un romanzo in piccola parte anche un po' autobiografico, c'è anche qualcosa della sua esperienza, qualcosa dei suoi confronti con le aziende, qualcosa appunto della sua pratica, dei problemi, delle opportunità, delle difficoltà che ha un consulente a entrare in un'impresa. Questo in Italia è particolarmente rilevante, Ceccarelli? Perché purtroppo assistiamo al fatto che la penetrazione della consulenza di direzione in Italia sia un decimo di quella che si può registrare in Inghilterra ad esempio. Quindi se con questo libro do una mano agli imprenditori a decidere di fare un passo avanti verso una maggiore professionalizzazione della gestione dell'impresa, penso di dare un contributo anche ai miei colleghi. Ecco, in questo romanzo questa azienda, i Gianselmi, è all'attenzione di un grande gruppo americano che vorrebbe conquistarla, che vorrebbe comprarla, e una parte della famiglia è anche favorevole, dice prendiamoci un po' di soldi, ci mettiamo al riparo per il futuro e poi l'azienda vada come vada, forse va meglio in un grande gruppo americano piuttosto che portarla avanti con difficoltà e con bilanci in rosso come erano stati negli ultimi anni, quindi con prospettive certamente difficili. Ecco, la tentazione di vendere vendere le aziende da parte degli italiani c'è, ci sono casi anche di grandi aziende che sono state cedute a gruppi multinazionali. Ecco, parliamo di casi o parliamo forse di una tentazione abbastanza diffusa in Italia, quella di ritirarsi, di passare appunto alla gestione finanziaria piuttosto che alla gestione imprenditoriale? Piercarlo Ceccarelli. Io credo, il mio osservatorio dice che la terza generazione è quella che si trova più vulnerabile rispetto a questo problema. La prima, il fondatore, è difficile che molli, la seconda riceve ancora gli stimoli caldi, immediati del fondatore, la terza ha un rapporto più distaccato rispetto all'azienda, quindi la tratta come un bene di famiglia, come un patrimonio, come altri patrimoni di cui dispone. Quindi ha un approccio più disincantato e più sereno. Ma questo non va visto necessariamente come un fenomeno negativo, dottor Fabi, perché in realtà poi le imprese devono essere valorizzate da coloro i quali sono in grado di farne il meglio, e non necessariamente la famiglia dei fondatori ancora dopo molte generazioni. Ecco, e allo stesso modo c'è una certa ritrosia alla quotazione in borsa, anzi alcune aziende che hanno seguito questa strada poi sono tornate indietro. Anche questo dimostra un po' in Italia un attaccamento degli imprenditori a voler in fondo decidere da soli, a non essere poi poco trasparenti nel fatto di portare i propri conti in pubblico e quindi vedere un po' limitate le proprie possibilità operative. C'è ancora troppo individualismo nella realtà imprenditoriale italiana? Probabilmente c'è anche di questo, però non dimentichiamo che la quotazione in borsa ha veramente senso se la dimensione dell'impresa è consistente, direi sopra il miliardo di giro d'affari, sotto il miliardo veramente, se lei va a vedere le implicazioni che questo comporta per l'impresa, insomma la mia posizione gliel'ho detta, insomma quando si è meno, quando si è più piccoli è difficile che la borsa rappresenti veramente una grande opportunità, anche se apprezzo l'evoluzione nella gestione che questo passaggio comporta, la professionalizzazione del management, del reporting, della trasparenza che questa decisione porta con sé. Ecco, è una decisione che porta con sé anche la decisione di crescere, il fatto di crescere, di svilupparsi, di crescere anche dimensionalmente, uno dei problemi forti della realtà italiana. Le aziende italiane sono piccole e restano piccole. Perché le aziende italiane riescono a crescere meno delle aziende degli altri paesi? Ci sono ostacoli più amministrativi, più burocratici, più fiscali, più di mercato del lavoro, o sono tutti questi insieme? Beh, tutti questi ostacoli naturalmente non facilitano l'impresa. Negli ultimi anni sono andati acuendosi in maniera veramente difficile. Però credo che il problema della crescita sia da ricondurre un po' al campanilismo del nostro paese, quindi un imprenditore è spesso soddisfatto quando viene riconosciuto nell'ambiente, nel paese, nella chiesa che frequenta, e quindi manca un'ambizione, manca una visione che lo spinga a superare dei confini che gli sono noti. Quindi credo che qui ci sia veramente da lavorare sulla cultura manageriale. Ecco, in questa prospettiva diamo uno sguardo, approfittando appunto di questa occasione, alla realtà italiana. In questo 2015 si parla un po' di ripresa, di piccola ripresa, di piccoli passi in avanti, di una ripresa un po' anche a macchia di leopardo, settore per settore. Dal suo osservatorio come vede le prospettive della realtà delle imprese italiane, Piercarlo Ceccarelli? Ci sono settori che vanno molto bene e sono andati bene anche durante la crisi, quindi di questi non parliamo. Parliamo degli altri, che soprattutto riguardano le aziende più piccole e le aziende che hanno il mercato domestico, e queste sono ancora in stallo. Leggono gli imprenditori, come leggiamo noi, i dati macroeconomici che sembrano dare qualche segnale positivo, ma rimane la realtà dei consumi debole, la realtà del lavoro costoso, la realtà dell'energia costosa e tutti gli altri fenomeni che fanno creano difficoltà all'impresa, continuano a creare difficoltà all'impresa. Ecco, nonostante tutto però qualche elemento positivo c'è: la capacità di innovazione, la capacità di esportazione soprattutto verso i nuovi mercati, la ricerca appunto di quelle cose che sono dei valori fondamentali per l'impresa italiana, come il design, come il bello, come il gusto di fare delle cose nuove, di avere un'innovazione non tanto a grandi livelli, ma quella piccola innovazione incrementale che può vincere la concorrenza. Ci sono anche elementi positivi nella realtà delle imprese italiane? Assolutamente sì, diciamo l'italianità è di grande moda nel mondo, non abbiamo mai vissuto un momento così magico, il problema è di accogliere le opportunità che questo trend ci consente, e ci sono fior di imprenditori, fior di imprese che li stanno cogliendo molto bene. Infatti prima parlavo dei problemi soprattutto per imprese che sono concentrate e limitate al mercato domestico, chi invece è aperto ai mercati internazionali sta conoscendo una primavera molto interessante. Alcuni settori che fino a pochi anni fa avevano difficoltà ad emergere stanno emergendo. In Oriente c'è un grande interesse per il nostro paese, per la nostra cultura, per la nostra arte e così via. Insomma, lo sappiamo, e penso che Expo rappresenterà una specie di suggello di questo momento magico dell'italianità nel mondo. Ecco, appunto, si tratta di valorizzare gli elementi positivi, come in fondo in questo romanzo, lo ricordo, di Gian Sermi, di Piercarlo Ceccarelli, ci sono tanti spunti che portano a valorizzare gli elementi positivi. Certo, bisogna avere la volontà di cambiare, la volontà di accettare il cambiamento, di accettare anche i consigli dall'alto, di accettare appunto di mettere in discussione quello che si fa, perché siamo in un mondo nuovo all'esterno, siamo in un mondo di grande rivoluzione. Allora leggere Gian Sermi è in fondo una storia in cui molti possono riconoscersi, anche i non imprenditori, anche chi vive il mondo delle imprese anche come osservatore. Piercarlo Ceccarelli ha scritto questo libro di Gian Sermi, una storia familiare, edito da Mind. Lo ricordo, sono 180 pagine per 19 euro. Ma un'ultima domanda: ci sarà un altro romanzo tra poco, Ceccarelli? Sì, sto lavorando a un altro progetto e spero di vedere, di portarlo in libreria il prossimo anno. Allora intanto godiamoci Expo e leggiamo i Gian Sermi di Piercarlo Ceccarelli. Grazie di essere stato con noi questa sera, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo. Grazie a lei, buonasera.